L'illuminazione muove da processi molto semplici. Anche qui si tratta di sviluppare certi sentimenti e pensieri che sono latenti in ognuno e che devono essere risvegliati. Soltanto chi persegue questi processi semplici con molta pazienza, severità e perseveranza potrà da essi venir condotto alla percezione della luce interiore. Il primo passo consiste nell'osservare in un determinato modo vari esseri della natura, come per esempio una pietra trasparente di bella forma, un cristallo, una pianta e un animale. Anzitutto si cerca di concentrare nel seguente modo tutta la propria attenzione sul confronto fra la pietra e l'animale. I pensieri che ora verranno indicati devono attraversare l'anima, accompagnati da vivaci sentimenti. Nessun altro pensiero, nessun altro sentimento deve frammischiarsi e disturbare l'intensità dell'osservazione. Ci si dica: la pietra ha una forma. L'animale ha pure una forma. La pietra rimane immobile al suo posto. L'animale cambia di posto. È un impulso che spinge l'animale a cambiare di posto. Anche la forma dell'animale è al servizio di quegli impulsi. I suoi organi, i suoi strumenti sono foggiati in conformità di questi impulsi. La forma della pietra non è foggiata da impulsi, ma da una forza scevra di passioni. Se ci si immerge profondamente in questi pensieri e si osserva con intensa attenzione la pietra e l'animale, sorgono nell'anima due generi completamente diversi di sentimenti. Dalla pietra fluisce nell'anima un genere di sentimento, dall'animale un altro. Probabilmente all'inizio la cosa non riuscirà, ma a poco con un esercizio veramente paziente questi sentimenti si affacceranno. Occorre solo continuare ad esercitarsi. All'inizio i sentimenti perdurano soltanto finché dura l'osservazione, più tardi però la loro azione si estende e finalmente diventano qualcosa che rimane vivente nell'anima. Basta allora che l'uomo si concentri perché i due sentimenti sorgano sempre, anche senza l'osservazione di un oggetto esteriore. Da quei sentimenti e dai pensieri che vi si ricollegano si formano gli organi della chiaroveggenza. Se poi nell'osservazione si aggiunge anche la pianta, si osserverà che il sentimento emanante da essa, per qualità e per intensità, è a metà fra quelli che emanano dalla pietra e dall'animale. Gli organi che si formano a questo modo sono occhi spirituali. Con essi si impara gradatamente a vedere qualcosa di paragonabile a colori animici e spirituali. Finché l'uomo ha assimilato soltanto ciò che è stata chiamata la preparazione, il mondo spirituale, con le sue linee e le sue figure, rimane oscuro. Per mezzo dell'illuminazione diventa chiaro. Anche qui occorre osservare che le parole oscuro e chiaro, come pure gli altri termini adoperati, esprimono soltanto approssimativamente ciò che si intende. Dovendoci servire del linguaggio corrente, non è possibile esprimersi diversamente. Il linguaggio è stato creato soltanto per le condizioni fisiche. La scienza occulta indica ciò che emana dalla pietra e si palesa all'organo chiaroveggente come blu o blu rossiccio, ciò che fluisce dall'animale come rosso o rosso giallastro. In realtà i colori veduti a quel modo sono di genere spirituale. Il colore che emana dalle piante è verde e si trasforma poco a poco in un rosa rossiccio, eterico, chiaro. La pianta è infatti l'essere naturale, le cui proprietà nel mondo spirituale somigliano sotto un determinato aspetto a quelle che ha nel mondo fisico. Non è così per la pietra e per l'animale. Bisogna però rendersi conto che quelle sopracitate non indicano che le sfumature principali del colore dei diversi regni delle piante, delle pietre e degli animali. In realtà esistono innumerevoli sfumature intermedie. Ogni pietra, ogni pianta, ogni animale ha una sua sfumatura di colore, ben determinata. Vi sono inoltre gli esseri dei mondi superiori, che non si incarnano mai, con i loro colori, a volte meravigliosi, ma spesso anche orribili. In effetti la varietà dei colori è infinitamente più grande nei mondi superiori che nel mondo fisico. Quando l'uomo ha acquistato la capacità di vedere con gli occhi dello spirito, prima o poi incontra anche gli esseri superiori menzionati e anche altri esseri inferiori all'uomo che non calcano mai il piano della realtà fisica. Quando l'uomo è progredito fino al punto ora descritto, si vede schiudere dinanzi molte vie, però non gli si può consigliare di procedere oltre, senza l'accurata osservanza di ciò che dall'occultista è stato detto o altrimenti comunicato. Anche per quel che finora è stato detto, è meglio seguire le norme tracciate da una guida esperta. Del resto, se lo scolaro ha avuto la forza e la perseveranza per progredire in conformità ai gradini elementari dell'illuminazione qui descritti, certo, si cercherà una giusta guida e la troverà. In ogni caso, una precauzione è necessaria a chi non la volesse osservare. Farebbe meglio rinunciare a qualsiasi passo nella scienza occulta. È necessario che chi diventa discepolo dell'occultismo conservi tutte le sue qualità di uomo nobile, buono e ricettivo per tutte le realtà fisiche. Durante il suo discepolato deve anzi continuamente intensificare la sua forza morale, la sua purezza interiore, la sua capacità di osservazione. Ci darò un solo esempio. Durante gli esercizi elementari per conseguire l'illuminazione, il discepolo deve cercare di sviluppare sempre più la sua partecipazione per il mondo degli animali e degli uomini, la sua sensibilità per la bellezza della natura. Se non vi provvede, quei sentimenti sempre più si attutiscono sotto l'azione degli esercizi, il cuore si indurirebbe, i sensi diverrebbero ottusi e si potrebbero risultarne conseguenze pericolose. Come l'illuminazione si presenti? Quando ci si eleva nel senso degli esercizi indicati sulla pietra, la pianta e l'animale, fino all'uomo? E come dopo l'illuminazione avverrà l'unione dell'anima col mondo spirituale per condurre all'iniziazione? Per quanto è possibile parlarne, sarà detto nei prossimi capitoli. Nel nostro tempo la via della scienza occulta viene cercata da molti e in diversi modi, anche per mezzo di pratiche molto pericolose e perfino riprovevoli. Coloro che stimano di conoscere qualche verità su queste cose devono perciò dare ad altri la possibilità di imparare a conoscere qualcosa della disciplina occulta. Qui è stato comunicato soltanto ciò che basta per dare questa possibilità. È necessario che parte della verità venga conosciuta per evitare che l'errore possa provocare gravi danni. Le vie indicate in questo libro, se seguite con misura, non riescono pericolose per nessuno. Una norma deve venire osservata. Nessuno deve dedicare ad esercizi occulti tempo e forza superiori a quelli di cui la sua situazione nella vita e i suoi doveri gli permettano di disporre. Nessuno, per seguire il sentiero occulto, deve modificare ad un tratto qualcosa nelle condizioni esteriori della propria vita. Se si desiderano veri risultati, occorre pazienza. Dopo aver eseguito per qualche minuto un esercizio, bisogna poterlo interrompere per compiere tranquillamente il lavoro quotidiano e nessun pensiero relativo agli esercizi deve frammischiarsi al lavoro della giornata. Chi, nel senso migliore e più elevato, non ha imparato ad aspettare, non è adatto alla disciplina occulta e non arriverà mai a risultati di qualche valore.